pronto? Fiato sospeso? Si comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mia non, io non ho mai sottovalutato niente a nessuno, anche perché ho lavorato per 3 anni per la Juventus, quindi sapevo benissimo il materiale umano che c'era, i dirigenti con cui avevo a che fare, il presidente, la proprietà, quindi mai mi è venuto in mente di sottovalutare la situazione. La Juventus ha fatto una grandissima stagione e per certi versi e comunque ha sorpreso anche me da un punto di vista del raggiungimento della finale di Champions League. Pensavo che la si potesse raggiungere nel giro di 2-3 anni, invece hanno accorciato i tempi e sono stati veramente molto molto bravi. Anche durante la finale ci sono state delle situazioni in cui potevano spostare a favore della Juventus, soprattutto dopo l'1-1. Io penso che la Juventus abbia dimostrato di starci bene, di poter competere e di essere tornata grande. Sarà che l'estate vola via. Chi è? Che canta? Che sono. Chi è che canta? Ecco. Che vive per metà. Ah, Sandro Giacobbe, il grande. Ciao Pierluigi, come sta? Bene, ti ho bene. Beccato tra una scaletta dell'aereo e l'altra. 800 24 00 24 a tutte le unità. Ecco. Lo so che li vuoi. 800 24 00 24. Sai quando hai chiamato ieri? 10 minuti 30, 35. Ma sì, lo so. Volevano parlare tutti con te. Allora, raccontami le emozioni di Berlino, dai, poi chiudiamo il capitolo e parliamo di. Mai sono diventate vecchie le emozioni di Berlino. Ma no, insomma, non invecchiano mai. Sapete quello che penso, insomma. No, dico, sono gobbo perché penso che la Juve abbia giocato bene. Per me ha giocato bene, ha fatto una buona finale. Io mi sono preso tutti i colori del mondo e con grandissimo orgoglio. Ma tu e anch'io. Ovvio. Senti, Conte adesso con la nazionale dice. Beh, Conte è stato elegante, posso dirlo, nel senso che comunque ha riconosciuto che di essere rimasto sorpreso, insomma, diciamo è stato logico, ma al di là dell'eleganza è stato logico rispetto alle sue affermazioni del passato, nel senso che lui aveva parlato del famoso ristorante da 10 o da 100 euro e quest'anno insomma la Juve, diciamo che almeno 80 euro la spesi, 100 sarebbero stati la vittoria, 80 sono la finale, va bene, ti piace questa. Antonio Conte il primo gufo contro la Juve. E poi chi è che ha detto che la canzone era di Sandro Giacobbe? Chi l'ha detto? De Luca, nostro autore. Oh, di chi è? Riccardo chi è? Fogli. Riccardo Fogli, ma infatti. Dai, Riccardo Fogli, no? No, dicevi, Conte è stato elegante. No, è stato elegante, insomma, ha riconosciuto insomma, che è una sorpresa, sarà una sorpresa anche per lui, altrimenti non avrebbe avuto logica questo discorso, ovviamente, no? Se lui se n'è andato via, evidentemente perché pensava di non riuscire a ottenere certi risultati e quindi, insomma, non ci sono dubbi che la cosa abbia sorpreso anche lui, come ha sorpreso tanti, insomma, io non pensavo all'inizio della stagione che fosse così scontato. scontato che la Juve potesse arrivare in finale, anche se la Champions, lo sappiamo, la competizione da questo punto di vista è ancora più liquida rispetto al campionato. Dov'è da rifondare, da ritoccare questa squadra? Beh, no, deve innanzitutto capire chi partirà, nel senso Pirlo, che chiaramente partirà. Sì, c'è un Barzagli, giocatore meraviglioso, per cui io dichiaro tutto il mio amore sportivo, sì, naturalmente. Ma io pensavo che altro te se Pogba, capire se Pogba sono discorsi diversi. Sì, sì, certo, però se Pogba va via ovviamente porta una valigiona di soldi che a quel punto deve essere spesa. Che adesso ci scrivono che è Sandro Giacobbe di nuovo. Vabbè, ragazzi, decidetevi. Come si chiama il titolo? Adesso lo cerco su Google. Sarà come si chiama la canzone? Sarà che l'estate vola via. Sarà che adesso cerco 800240024. Vola via. Aspettiamo Riccardo Fogli o Sandro Giacobbe per Sandro Giacobbe. Amico mio che mi scrive il pezzo di Riccardo Fogli. Che vola via. Sarà, ma sono qua 80024. No, dicevo, adesso, vabbè, dopo il traffico facciamo in serie, parliamo Napoli Fiorentina, ci sono grandi temi. Napoli Fiorentina, mercato cacciato. Certo, se Pogba dell'altra sera vale 100 milioni, lo portiamo in macchina, eh? 100 milioni non li vale, dai, secondo me. 100 milioni sono una forzatura, però ne vale secondo me 60-70, cioè un giocatore comunque in questo momento di grandissimo potenziale, di grandissima prospettiva, insomma, vista l'età, vista la forza fisica, anche la buona qualità tecnica, la sfrontatezza. 100 milioni mi sembrano francamente un'esagerazione. Senti, Tevez secondo te cosa farà? Tevez io credo che sia di fronte più che altro a una scelta di vita. Questo è chiaro. Sinceramente, anche se ho sentito spuntare il nome del Paris Saint-Germain e lì sarebbe diversi nomi. Sì, lì sarebbe meno scelta di vita, no? Nel senso, la scelta di vita è il Boca. È tornare nella sua dimensione naturale, sarebbe una scelta romantica. Il resto invece è una normale scelta professionale, sarebbe un'eventuale normale scelta professionale accettabilissima. È chiaro che ci sono altre società con budget anche superiori a quelli della Juve in giro per l'Europa, quindi ci potrebbe anche stare, però ecco, poi diciamo tutto il contesto romantico verrebbe meno. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi parliamo di Montella, parliamo di Sarri al Napoli, parliamo di allenatori, allenatrici, basketari. Mamma di Cristiano Ronaldo, fermata la madre di Cristiano Ronaldo con 55.000 euro nella borsa. Ma così. Era la paghetta settimanale del mio ragazzo, dichiara Gerignocchi. Calzecchia. Strade. Ci hai rubato la partita, tu sei spagnolo, vero? Robo di questo è robo. Su Pogba era rigore, robo. Neymar, Messi, robo. Tutti convocati. Tutti convocati. Io con la società ci siamo chiariti, un lungo colloquio, abbiamo messo sul tavolo tutte le proprie convinzioni, le proprie valutazioni, anche le proprie potenzialità e aspettative, quindi c'è stata grandissima chiarezza nel rispetto dei professionisti e nel rispetto anche delle persone, che non è da poco conto, io ci tengo molto. Ci siamo presi qualche giorno di tempo entrambi e vediamo la calma e il sonno, soprattutto il riposo, cosa ci consiglierà insieme. Quindi Pierluigi Pardo, Montella, finita malissimo. Montella se ne va, finita male. Beh, c'era finita male perché il divorzio burrascoso. Sì, beh, la famosa, insomma, notizia che era arrivata 48 ore prima su questa indisponibilità fino al 5 luglio. Invece potrebbe finire bene la storia del Parma. Sappiamo che c'è un'offerta in busta più chiusa che verrà aperta nel pomeriggio e quindi potrebbe esserci la possibilità, saldando il debito sportivo, di ripartire dalla Serie B. E sarebbe, insomma, onestamente, andrebbe di lusso, diciamo, per come si erano messe le cose per il Parma, ma ovviamente. Quindi, l'aeroplanino va alle Maldive insieme ad Ancelotti, a Klopp, tutta questa gente a svernare. Ma sai, è un fatto anche un po' di tempistica, nel senso che questa decisione è arrivata dopo che praticamente il Milan aveva già chiuso con Mihajlovic e con una situazione ben avviata per quanto riguarda il Napoli con Sarri, anche se credo che la firma non ci sia ancora al 100%, almeno qualche minuto fa non c'era ancora la firma, no, per Sarri al Napoli. E ieri, quando è apparsa questa notizia, quando è arrivata la notizia di Montella libero, insomma, il web napoletano si è giustamente un po' scatenato il pelo. Beh, insomma, no, sai, anche se poi alla fine, se secondo me, se scegli Sarri, stai scegliendo una soluzione talmente disruptive, talmente diversa rispetto alle più tradizionali. Sarri che poi non prendi Montella. Cioè, se hai scelto Sarri non prendi Montella, secondo sì, me. Perché? Sì. Perché vuoi provare questa cosa qui, no? Cioè, ma è una scelta, poi ne parliamo un caso, ma è una scelta un po' mazzariana. Allora, Sarri mi sembra Sarri, un po', mi sembra un po' l'opposto di Benitez. Oh, Luca Calamai, buongiorno. Eccolo. Ciao, buongiorno a tutti. Come va? Dicevi, Piero. Una classica, classici giorni fiorentini, no? Grande tensione, grande confusione, la gente capisce poco. E comunque siamo arrivati a una rottura che non è dettata da un episodio, ma da una stanchezza generale. Mm. Io credo che sia Montella che Della Valle alla fine, insomma, la accettano quasi come un passaggio inevitabile. Io penso che Montella, dopo tre quarti posti in tre anni, avesse la convinzione dentro di sé di non poter fare di più. E questa clausola di 5 milioni, oggi 5 milioni probabilmente non li pagano nemmeno per Mourinho, 5 milioni sono un vincolo spaventoso, certo, no? per un allenatore. E io ho la sensazione che Montella probabilmente senza questo vincolo avrebbe potuto allenare il Milan, e lui probabilmente ne era molto più convinto, ne era ancora più convinto. E dall'altra, quando un allenatore non ti mette di fronte alla piazza questa pressione sul fatto degli investimenti, in un calcio in cui è chiaro che la Fiorentina sta all'interno del fair play finanziario in maniera totale, però l'estate scorsa ha chiuso il mercato con 20 milioni di passivo perché aveva rinunciato a vendere Cuadrado, perché voleva provare a mettere insieme Cuadrado, Rosso e Gomez per cercare di fare salto di qualità. Cioè, quando ci sono le condizioni è una proprietà che rischia, però non rischia strategicamente, ecco. E quindi è normale che quando si parla, mi risulta la forchetta di investimenti di quest'anno sarà nell'ordine dei 10-12 milioni, che poi non credo sia molto diversa da quella della stragrande maggioranza delle squadre. Sì, la Juventus adesso vediamo cosa fa anche Salah, Luca, perché nei giorni scorsi si era detto 16 milioni è il prezzo, è il cartellino, esatto, che ha attaccato, esatto, addosso. Salah aveva messo anche condizione Montella la sua permanenza. La prossima settimana andranno a Londra proprio per dirigente della Fiorentina per parlare con il Chelsea. L'idea loro è quella di trovare un accordo con il Chelsea, che comunque secondo me gestisce ancora Salah, nel senso che, sì, che possano trovare un accordo per fare ancora un anno di prestito, per comprarne metà. Ma insomma il percorso è quello, ma è un percorso che però una società sana gli permette di essere arrivata in due semifinali di Coppa. E, sì, sì, ma infatti insomma, vedendola da fuori, poi chiaramente il tifoso ha sempre delle grandi ambizioni, ci mancherebbe altro, ed è anche giusto così. Vedendola da fuori, certamente la gestione Montella è stata una gestione virtuosa a Firenze, lo è stata anche quest'anno, insomma, quarto posto, al di là del fatto che poi quel quarto posto, diciamo, nella realtà della stagione è stato più un quinto, no? Nel senso che comunque è andata molto più vicina alla Champions il Napoli della Fiorentina, questo va detto, quindi è stato un quarto posto sì, ma che non ti ha mai dato la percezione di poter arrivare in Champions. Però insomma, anche le due semifinali, sia quella europea che quella in Coppa Italia, sono... Il bilancio è positivo, sì, dai, non sì, no, ti resta sempre la sensazione dell'incompiuta, sì, cioè, arrivi lì e non fai l'ultimo passo. Incompiuta perché... Però vorrei ricordare, ma lo sanno tutti, che questa Fiorentina è partita quest'estate su tre giocatori, che sono Rossi, Gomez e Cuadrado, perché è tutto legato a questi tre. Uno non ha mai giocato, uno è quasi come se non avesse mai giocato, e Cuadrado ha fatto mezzo anno con una voglia di andare via. Allora, ecco perché io credo che comunque il lavoro di Montella sia stato un lavoro assolutamente positivo, perché pur avendo perso tutte le fondamenta di un progetto, perché non c'aveva niente sostanzialmente, lui ha portato la squadra al quarto posto. E quindi credo che di questo bisogna dargliene assolutamente merito. Poi, per carità, ha commesso degli errori, tipo la semifinale di ritorno contro la Juventus. Però, insomma, siamo all'interno di un valore... Cioè, la Fiorentina ha ottenuto il risultato, tutto sommato, che valeva, ripeto, escluso la finale di Coppa. Chi arriva adesso? Ma guarda, la Fiorentina vuole Paolo Sosa per tre motivi. Perché loro cercano una figura giovane, una figura che abbia una valenza internazionale e che abbia anche ambizione. E l'identikit è perfetto per Paolo Sosa, che è giovane, che comunque ha già fatto un'esperienza all'estero e ha vinto il Basilea. È un po' una scommessa, come poteva essere Montella, che ricordiamolo è arrivato a Firenze sostanzialmente con un campionato nel Catania, né? Che aveva chissà quale storia alle spalle. E se non riesce a liberarsi Paolo Sosa, che comunque è ancora Basilea, le opzioni alternative sono, direi, soprattutto Donadoni, perché anche Ventura dovrebbero liberarlo, il Torino vorrebbe la contropartita, insomma sarebbe problematica. Io penso che casomai Donadoni, che oggi, diciamoci la verità, ha dimostrato, rappresenta una figura di competenza e di lealtà, e in questo calcio non è poco, no? Però le fiche sono tutte su Paolo Sota. Io ti faccio una domanda su Donadoni che stimo tantissimo, però vale un po' il discorso che ho fatto qualche giorno fa per quanto riguarda Prandelli a Napoli, che era stata un'altra suggestione. Dal punto di vista della piazza, poi magari uno può anche fregarsene della piazza, tanto alla terza vittoria consecutiva la piazza si infiamma a prescindere, però insomma è una soluzione che ti convince quella di Donadoni? L'avrebbero già preso, cioè Donadoni, certo, essendo libero, preso, 5 minuti lo potevi annunciare, prendi 5 minuti insieme all'esonero, lui è libero lui è libero da mesi, ecco. No, ma l'idea è, il Napoli cosa ha fatto? Ha giocato una carta a sparigliare, è andato a prendere uno di cui si sa poco, è una grande scommessa. Paolo Sosa è un'altra grande scommessa, perché lo ripeto, ha già fatto delle esperienze, alcune positive, alcune negative. Di sicuro non ha il problema del calcio italiano, che conosce benissimo anche la lingua. È la ricerca che fa una proprietà di dire anche alla gente: non ci accontentiamo del 6 politico, andiamo a cercare qualcosa di più, che può essere un 5, ma può essere anche un 8. Ecco perché credo, Luca, che, ripeto, almeno appunto, ti volevo chiedere per chiudere, appunto, di altri due toscani. Uno l'hai già accennato, cioè Sarri. Prima con Pierluigi si parlava di una scelta un po' mazzariana, no, da questo punto di vista, cioè di un'inversione di tendenza a Napoli, e questo riguarda Sarri. L'altro toscano è Spalletti. Perché non torna più? Allora, Sarri è una sfida. Guarda, è una sfida che è intrigante anche dal punto di vista giornalistico, perché chi ha avuto il piacere di vedere 2 o 3 allenamenti di Sarri, sì, sì, capisce che siamo su frontiere curiose. E quindi bisogna vedere, come sempre, mi è venuto un po' a mente Sacchi, senza voler offendere, certo, Sacchi. Perché no, ma Sacchi fra l'altro è stato uno dei suoi principali sponsor, quando si era parlato del Milan. Quindi, insomma, bisogna vedere fino a che punto un maestro di calcio riesce a entrare in sintonia, non con il ragazzino che arriva per la prima volta in Serie A e gli puoi anche chiedere di correre a testa in giù, lo fa felice, ma con un mondo che invece ha ambizioni, grandi giocatori, grandi stipendi, grandi storie alle spalle. Ecco, se riesce questo matrimonio, allora Sarri sarà veramente una grande storia. Quanto a Spalletti, guarda, il problema di Spalletti è che io ho la sensazione che almeno per un altro anno o lui va a allenare all'estero o resta. Ma perché? Resta fermo. Perché? C'è un motivo? Perché probabilmente ci sono anche delle sue situazioni personali. E il giorno che ritornerà con un convinto di un grande progetto. Ma io non immagino di vederlo in panchina almeno fino a gennaio dell'anno prossimo. Senti, no, una curiosità finale, perché una volta lì c'erano i riti di degobizzazione, no, Firenze. Paolo Sousa comunque 2 anni si era fatti alla Juve. Tutto ciò è finito con Trapattoni. Ah, ok. Cioè, più, tra virgolette, gobbo di Trapattoni non ci può essere. Certo. Allora, passato Trapattoni, Paolo Sousa è un ragazzo, anche perché comunque lui poi ha giocato anche all'Inter. Sì, ma poi è andato in prescrizione eventualmente, perché ha smesso nel 96, 19 anni poi, fa. Come dicevate tranquillamente, se vince 3 partite di fila diventerà più Viola di Viola, se ne perde 3 diventa il peggio della Juventus. Tanto il calcio è fatto così. La Firenze antigobba come l'ha presa la grande vittoria? No, ora, al di là degli scherzi, Firenze è rimasta confusa dalla vicenda Montella, perché insomma, capite bene che è un esonero che, come dicevo prima, non è figlio di un comportamento scorretto, non è figlio di risultati negativi. No, ma non è neanche così sorprendente, Luca. No, non è sorprendente, perché era un matrimonio consumato. Sì, appunto, e allora quando i matrimoni sono consumati, ma anche con la città, anche con la città dopo quello sfogo, nel momento in cui lui disse quella frase che la squadra aveva fatto meglio dei tifosi, ma credimi, c'è almeno un 30-35% di tifosi della Fiorentina che invece sono molto dispiaciuti, e secondo me hanno ragione, perché Montella per me diventa un grandissimo allenatore. Grazie Luca. Ciao. Senti, ma Vittorio da Napoli, vogliamo sentirlo subito? Ma è subito, chiaro, Vittorio, mentre prego. Andrà a provincia di Gorizia, la prego, ci aspetti. Ti convince dopo. Sarri, Vittorio? Pronto? No, Sarri, mi sa che avete recensato benissimo l'argomento. Tenere lo spogliatoio del Napoli non sarà una cosa facile. Volevo chiedervi un parere. in merito a un signor Antonio Conte, condannato per frode sportiva, che viene fatto direttore tecnico CT della Nazionale, in più gli diamo un contratto di 4 milioni l'anno. Ancora là in più, adesso un attimo, solo finisco un più, adesso va sotto, un attimo, va sotto processo per lo scandalo scommesse, lo facciamo magari il presidente del CONI. Volevo sapere il vostro parere in merito a questa situazione. Innanzitutto è un'accusa, no? Se non sbaglio, quella di frode sportiva. Quindi è un'accusa quella di frode sportiva, c'è stato un patteggiamento per quella, esatto, per quella storia. È il famoso agghiacciante, devo patteggiare agghiacciante. No, devo dire la verità, a me non è piaciuta e credo che non sia piaciuta a nessuno quella pressione di una decina di giorni fa sugli organi giudicanti. Nel senso che, insomma, utilizzare il proprio ruolo di commissario tecnico per dire la cosa si risolve prima oppure mi sento libero, ora è oggettivamente chiaro ed evidente che se Conte dovesse avere delle difficoltà di carattere, diciamo, giudiziario nei giorni in cui guida la squadra all'europeo, non sarebbe proprio il massimo della vita. Su questo non ci sono dubbi. Detto questo, però, di fronte alla legge mi piace pensare che siamo tutti cittadini uguali e quindi, insomma, se uno ha un problema non è che può dire vabbè, io però ho una questione di forza maggiore per cui sbrighiamoci, perché sappiamo che coi tempi della giustizia in assoluto, sia quella sportiva ma soprattutto quella ordinaria, insomma, ci combattono tutti gli italiani. Quindi non mi è piaciuta, ma credo che anche lui in qualche modo si sia pentito di come questa cosa poi è stata percepita dall'esterno, perché insomma sembrava un po' un cercare una scorciatoia, no? Utilizzando una funzione che oggettivamente è una funzione molto importante, è quella di commissario tecnico. Sul resto, insomma, Conte è stato preso non perché diciamo le sue qualità morali, non è stata fatta una valutazione su questo, è stata fatta una valutazione su quello che può dare come commissario tecnico e come allenatore, ed è una scelta che io un anno fa ho caldeggiato e la ribadisco. Cioè, secondo me la Nazionale ha scelto molto bene scegliendo Conte. Sì, a condizione che ogni volta non metta la questione di fiducia sulla panchina, perché troppe volte ha messo la questione di fiducia. Ci dice Emanuele Vecchi, che ci scrive su Twitter, che Paolo Sosa i gobbi li buttò anche fuori dalla Champions col Panathinaikos, addirittura segnando. Abbiamo gli ascoltatori che sono straordinari di come preparazione, ecco. E dopo la borsa sentiamo Andrea dalla provincia di e poi tutti gli altri al 8 8 0 0 24 0 0 24. Dopo prima svolta della partita, ancora lunga, però seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati, Focus Economia. Allora, richiedersi conoscenza della lingua francese. Prego. Attitudine al lavoro di squadra. Sì. Disponibilità a trasferimenti, a viaggiare, eccetera, eccetera. Cercasi AAA. Cercasi nuovo CT della Nazionale della Costa d'Avorio. Perfetto. Annuncio sul sito di Focus Economia, su Facebook e anche sul sito ufficiale della federazione. Vogliamo provare? Proviamo, dai. Vogliamo dare io e te? Dai, sì, andiamo. Proviamo? Andiamo. Faccio il vice. Faccio il preparatore atletico. Ma no, io pensavo De Luca. Andiamo avanti De Luca. Sì, dai. Andiamo avanti De Luca, così se si vince è merito nostro. Se si perde è colpa di De Luca. Colpa di De Luca, va bene così. Senti, ma quel pagliaccio di Gervinho che va a giocare nella Jazira? Come fai? Come pagliaccio. Ma come fai ad andare a giocare poi nella Jazira? Poi il pagliaccio a uno. Vabbè, ma per c'è a giocare Vucinic, Ma ho capito, Vucinic ha fatto la carriera, cioè voglio dire, Gervinho un anno fa era... pure Vucinic quando se n'è andato, ha fatto un brutto ultimo anno alla Juve, però era un giocatore. Ma aveva una certa età, cioè Gervinho che va... Adesso ti smentisco subito. Ad affondarsi nell'Al Jazeera, tutto resta. Scusa, adesso ci siamo appena candidati per la panchina della Costa d'Avorio. Hai ragione. E subito dici sta cosa su Gervinho. Gervinho noi lo recuperiamo, anzi gioca ad Al Jazeera, tanto lì che campionato vuoi che sia, che partite vuoi che siano, quando viene con noi alla Costa d'Avorio sarà in meravigliosa forma, non rischi infortuni. No, poi allora che la scelta di andare all'Al Jazeera sia una soluzione dal punto di vista tecnico e di motivazioni veramente discutibile, non c'è dubbio. Io ti dico, non ho mai criticato Eto'o, ad esempio, quando è andato a seppellirsi in Russia per una montagna di soldi, aveva 31 anni. La stessa. Ho capito, però secondo me Gervinho poteva ancora dare qualcosa, certo. Poteva ancora dare qualcosa al calcio. Allora, prima di Andrea, provincia di Gorizia, Andrea, mi scusi, è lì da un'eternità. 800 24 00 24. Mi chiedono Massimo, l'anno prossimo in Empoli Carpi se tifo per maccarone Francesco, o per lasagna. Io tifo fra i due, io sono per il maccherone. Per il maccherone, per il rigatone, la mezza manica, sì, sì, come? Ma io sono per la pasta, la pasta ripiena mi piace meno. Mi rendo conto che sembra il gastronauta. Prego. No, prima di Andrea, Berlusconi che spiega ad Agnelli perché il Milan vale quello che vale e Agnelli invece non l'ha capito. È facile, non è difficile, Tenga presente che per quanto riguarda la Coppa dei Campioni, contro due coppe vinte dalla Juventus, noi ne abbiamo 7 e sopra di noi c'è soltanto il Real Madrid, ma non con le coppe vinte negli ultimi anni, con quelle vinte negli anni precedenti. Con la promessa alla mia entrata in campo. Capito? Perché il Milan, metà del Milan vale 500 milioni. No, però guarda, ieri nel ragionamento di Agnelli, insomma, secondo me mancava questo tassello. Cioè, il brand non è un fatto banale, eh? Cioè, no, il Milan, quello che ha vinto a livello internazionale, il Milan, è il motivo per il quale il Milan oggi è così forte anche dal punto di vista economico. Certo, punto. Certo, può piacere o può non piacere, ma le regole le dette al mercato e mi pare chiarissimo questo tipo di verdetto. Certo. Andrea, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'attesa. Io volevo parlare del caso Montella, più che altro di Paolo Sousa. Paolo Sousa ha un curriculum abbastanza ridicolo, perché a parte quest'anno non ha mai allenato, allenato in Ungheria, allenato nella seconda serie inglese, fallendo tra l'altro dappertutto. Non sarà che lo prendono perché è di Fally Ramadani, che ha 7 giocatori alla Fiorentina e ha curato la cessione di Jovetic, Nastasic, e riquadrato al Chelsea recuperando 80 milioni per la Fiorentina? Grazie. Domanda tendenziosa. Non è tendenziosa. Ramadani è oggettivo che abbia un ruolo, un rapporto privilegiato con la Fiorentina. Però attenzione, nel senso che poi questo fa parte della vita. Questo fa parte della vita. Il calcio è chiaramente un luogo nel quale c'è una marea di interessi, e quindi, insomma, da questo punto di vista è, diciamo, un amplificatore di tutta una serie di comportamenti che ci sono a ogni livello. Contano molto le conoscenze, nel senso che se c'è un procuratore bravo che ti fa fare delle cose, gli dai fiducia e te ne porta altre. Questo vale a ogni livello. Io penso che Sabatini, lo dico con chiarezza, quest'anno abbia commesso degli errori alla Roma che gli sono stati permessi perché negli anni precedenti aveva fatto benissimo, aveva fatto dei colpi clamorosi dal punto di vista del mercato, e quest'anno ha fatto degli errori, e la fiducia che ha avuto quest'anno forse è dovuta anche al fatto che aveva questo tipo di credito. Minoraio, la sappiamo che ha avuto un rapporto privilegiato con il Milan. Non parliamo di Jorge Mendes, che non parliamo di Mendes. Tiene in mano metà del calcio, cioè, voglio dire, non è che per forza questa cosa qui sia sbagliata. Bozzo è andato in grandissima crescita, è stato un momento che ha lavorato moltissimo con l'Inter, ma non vuol dire che ci sia qualcosa di losco o di sbagliato, insomma, anche semplicemente sono delle opportunità. Poi voglio dire, quest'anno ha fatto bene Paolo Sousa. Ma assolutamente, anche lo stesso Conte prima di arrivare alla Juve. Anche lo stesso Conte prima di arrivare alla Juve non è che avesse fatto benissimo da tutte le parti, Atalanta compresa. Quindi è un allenatore molto giovane, dunque se la Fiorentina vuol credere in lui, non so se dipenda solo dal procuratore che lo porta, o magari sì. Massimo Torino, buongiorno. Buongiorno, tornando domenica sera da Berlino, ho fatto un bel viaggio con un ex grande dirigente della Juve, abbiamo parlato un po' di mercato. E volevo far una. Non glielo dico chi è. Allora, tutte. Il più grande direttore sportivo. No, a parte gli scherzi. Cavani o Higuain per la Juve, secondo voi? Innanzitutto bisogna vedere chi lo vende, se lo vendono. Higuain, insomma, è vero che nel calcio di oggi, appunto, i giocatori possono tranquillamente andare da una squadra all'altra nonostante le rivalità, però insomma, per De Laurentiis vendere Higuain, venderlo alla Juve, insomma, non è una cosa semplicissima. Cioè, secondo me poi si dovrebbe presentare a Napoli con un giocatore almeno di pari valore, altrimenti insomma il rischio di far pensare veramente al ridimensionamento ci sarebbe. Ma io Cavani Morata li vedo meglio. Cavani, guardare, no? Sì, sicuramente sì, perché comunque insomma Cavani ti dà un tipo di movimento e un tipo di contributo complessivo superiore, no proprio superiore rispetto a Higuain. Higuain ha altre qualità. Higuain è un attaccante tecnicamente eccezionale che quest'anno insomma alla fine è inciampato su 4 calci di rigore che sono stati, 3 dei quali sono stati pesantissimi, ma dal punto di vista realizzativo non ha niente in meno rispetto a Cavani. Cavani partecipa di più, su questo non ci sono dubbi. Francesco Napoli, buongiorno. Buongiorno, sono una piccola polemica con il signor Pardo. Prego, dica. Piccola, domanda, facciamola grande polemica. Allora, grande. Il signor Bale acquistato dal Real, per quanto è stato pagato? 110, sì. Quindi Pogba ne vale, certo, dice, allora, se Bale vale 110. Allora questa è la domanda, sì. Me sono troppo alti i costi per tutti. Però se un Bale viene pagato tanto e non ha vinto niente, mi scusi, ma il Pogba, che è molto più giovane del Bale, ha vinto qualcosina negli ultimi due anni, ma non... ha vinto qualcosina, penso, ma che il... valga lui. Ma certo, ma su questo non ci sono dubbi, voglio anche dire, se però... l'ho visto l'altra sera, non, no, ma lì, non esiste la proprietà transitiva, ed esistono sicuramente per 4-5 club in giro per il mondo delle fissazioni di mercato e una borsa talmente grande, talmente enorme, che se un giocatore, uno decide che lo vuole, l'asta praticamente non ha limite. Quindi da questo punto di vista, certo, è tutto è possibile sul fatto che anche David Luiz può anche valere 100, non c'è rischio. Appunto, David Luiz è una roba folle, ma insomma, nel suo piccolo la Roma ha pagato 1,5 milioni spolli, adesso con tutto rispetto alle spolli, cioè voglio dire, gli errori si fanno, le quotazioni in certi casi sono esagerate, la Roma di contro aveva venduto molto bene Benatia, però voglio dirti, secondo me 100 milioni è una quotazione alta. Poi ha ragione l'ascoltatore, cioè se dovesse esserci la società, una di quelle 3-4 società che hanno il valigione con i fantastilioni che possono spendere tutto quello che possono e che vogliono, e si fissano che devono prendere Pogba, prendono Pogba e lo pagano pure 100, quindi non è da escludere al 100%, però secondo me la quotazione è un po' più bassa, insomma, se dobbiamo fare un discorso così generale. Gervinho come Giovinco, scrive Renato. Ah sì, ma infatti Giovinco, 24, ma anche di più Giovinco. Però insomma, voglio dire, ragazzi, è facile secondo me fare i discorsi sui soldi agli altri. No, ma io sono d'accordo, Piero. Certamente, Gervinho nel rinunciare, e anche Giovinco prima, non ce ne vorrà Andrea D'Amico, nel rinunciare a esperienze in campionati come il nostro, ad andare rispettivamente in Arabia e in Canada, fanno una scelta che dal punto di vista professionale con la differenza che gli toglie qualcosa. Possiamo anche dire che il movimento americano in ascesa, quello della... Ma sì, vabbè, ma certo, ma insomma, arabico non direi, insomma. Borsa. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Sta passando Argo, passato Argo. Sì, passato Argo qui davanti a noi. Salutiamo Argo. Non saprete mai di chi stiamo parlando. Sono così rimbambito che ho lanciato la borsa. Io l'ho chiamato. La sentono la radio redazione o no? Perché non si No, non la sento. Lo sentite la radio? No, non la sento. Quindi vabbè, passato Argo. Passato Argo. 800 24 00 24. Vogliamo sentire una voce in attesa di stiamo aspettando un ospite super. Certo. Vialli sulla finale di Champions. Vai. In Italia sì, la Juve mi sembra comunque nettamente la più forte, poi credo che stiano anche facendo molto bene sul mercato per sostituire eventualmente i giocatori che se ne andranno e rinforzare la squadra, quindi mi sembra che la società abbia le idee chiare e sia molto motivata, ci siano ancora gli stimoli e la fame che poi sono quelli che fanno la differenza insieme alla qualità della rosa dei giocatori. Questo era Vialli sulla finale di Champions. C'è anche un Pozzo che parla di giocatori. Non prendiamo giocatori tra i profughi, dice Pozzo. Sono ottimi giocatori perché, come vi ho detto altre volte, non è che li andiamo a prendere tra i profughi che arrivano qui, che hanno diritto di tutto il riguardo, no? E quindi magari mandare anche un osservatore a vedere se c'è qualche talento in mezzo, però questo non l'abbiamo fatto, e quindi sono tutti giocatori che hanno un buon curriculum e che però come sempre spesso succede che arrivano qui dei giocatori che la gente si chiede ma dove li hanno

Ma che Reggio Emilia, dai. Reggio Emilia, io sto facendo un tifo indiavolato, a me piace da morire, però c'è una sfiga. Anche Dinner si è fatto male, stagione finita anche per Drake Dinner, la vedo brutta. Ripartiamo fra poco. Ripartiamo. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Oggi c'è Pierluigi Pardo qui con me, quindi grande festa. Con gli ascoltatori, come piace a te. 800 24 0024. Roberto da Modena, a due passi dalla finale di Serie B Bologna-Pescara, che andrà in onda questa sera. Andrà in scena questa sera, oltre che in onda. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo farvi due domande, dopo vi ascolto per radio la risposta. Chi il prende 48? L'Inter, dove ci porti e poi di soprattutto perché? Luciano Ligabue? No, è canzone di Ligabue, gente. Ho tre domande per non te. Ci faccia caso, prego. Dica. Ok, niente, volevo sapere: 48% del Milan, 500 milioni di euro, senza una squadra decente, senza risultati, e un merchandising, un brand da sviluppare in vendita di magliette. Se il Milan vale così, quanto vale la Juve? Questa è la prima domanda. Poi, qual è secondo voi la vera impresa sportiva? Cioè, una Juve che fa un triplete o un Carpi che dall'eccellenza va in Serie A con pochi soldi e tanto scouting? Grazie, vi ascolto. Per quanto riguarda la seconda, tutte e due le cose. Sì, la Juve non ha fatto il triplete. La Juve non ha fatto il triplete, ma semplicemente ha fatto una grande stagione sportiva. Ribadisco, una grandissima stagione e credo che... questo sia indiscutibile. E per quanto riguarda il Carpi, vabbè, il Carpi ha fatto un miracolo, ma anche la doppia promozione del Frosinone, cioè non è che per forza se c'è un'impresa sportiva ce n'è un'altra, esatto, quella, ce n'è una. Sono tutte imprese sportive diverse, ovviamente è come dire impresa più grande quella di Wawrinka che vince Roland Garros o di Wiggins che fa il record dell'ora, tutte e due le cose, tutte no? E due. L'altra cosa è quanto vale la Juventus, no, se Milan non vale così. Ma quanto vale la Juventus non lo so, innanzitutto il prezzo lo fa il mercato, esatto, innanzitutto il prezzo, esatto, lo fa il mercato, e questo è un mercato nel quale non è che ci sono 150.000 compratori, non è il mercato del pane o del latte, non è che ci sono i consumatori, c'è un singolo soggetto, due soggetti o tre soggetti che possono essere interessati a quel tipo di club, quindi è un mercato da questo punto di vista diciamo poco liquido, per usare il linguaggio di Barisoni, dove basta uno che vuole fare tra virgolette una follia e alza il prezzo, però insomma non so se la Juve vale di più, sinceramente. Dal punto di vista tecnico è chiaro che vale di più, ha lo stadio di proprietà, ha una condizione nettamente superiore dal punto di vista della qualità dei giocatori, ha delle prospettive molto migliori, ha degli incassi in questa gestione sicuramente maggiori. Il Milan ha una forza appunto di brand che evidentemente è stata molto valutata, insomma, ma non è che lo dico io, lo dice il mercato, lo dice, certo, questa offerta che c'è stata, tutto qui. Poi c'è una differenza essenziale, che il Milan è in vendita, la Juventus non risulta, mentre a proposito di Juventus è ufficiale, Sami Khedira è andato in bianco e nero, si sapeva già ma adesso c'è l'ufficialità e secondo me è un grande acquisto, è parametro zero, poi giocatore che a me piace tantissimo. Mimmo Salerno, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi gente, buongiorno a Leopardo. Salve. Vi ascolto tutti i giorni, un'ora di felicità, un'ora e mezza. Esagerato, Mimmo, esagerato, è così poco, prego? Un'ora e mezza, Pardo dice esagerato, io dico un'ora e mezza, No, vabbè, non posso tutto, ma un'ora mi fermo sempre quando posso. Senti, grazie. Io sono un anti-juventino sfegatato, perché penso che uno, come nel rapporto con la donna, o la ami o la odi. Sì. Io la odio, sportivamente parlando. Anche perché io sono stato abituato a vivere di campanilismo. Vivendo al sud qua mi ricordo le partite, facevano i due paesi vicini, che c'era una guerra sportiva, a tutta forza, gli sfottò a tutta forza. Allora la considerazione che facevo io per la partita di sabato è questa, io sono ancora godendo da sabato, che praticamente non è mancata né un po' né la tecnica alla squadra, né la tattica, né i giocatori, né la fortuna, è mancata una sola cosa, grande quanto una casa, un arbitro italiano. Questo è quello che è mancato. Se ci avevano l'abitualità, può darsi che riuscivano anche a portarsi a casa il triplete. Grazie, mi ascolto per l'altro. Invece non c'è tantissimo da aggiungere. Il rigore si poteva dare, per me c'era quel rigore. Il rigore si poteva dare, come magari poteva girare la partita. Però ecco, appunto, io credo che come sempre ci sono due elementi: da un lato la piena libertà e il godimento di tutti quelli che hanno tifato, secondo me, stralegittimamente Barcellona, perché poi ognuno fa quello che vuole e al cuore non si comanda. Dall'altro, però, secondo me è quello che mi sembra incredibile, è sentir dire che adesso la Juve non ha fatto niente, non è arrivata in finale, non ha messo paura al Barcellona. Ecco, quelli che ti dicono da fine 10-0, secondo me 10-0, poi ha incontrato Borussia Dortmund, poi ha incontrato il Monaco. Questo è assurdo. Poi che uno possa aver goduto come un riccio, questo è legittimo. Ci sta. E secondo me il fatto che la goduta sia stata così grande da parte degli anti-juventini, in qualche modo, è anche perché la partita non è stata così semplice. La Juve è stata in partita fino al 94esimo. Il Barcellona certamente ha fatto di più, ha meritato e non c'è discussione da questo punto di vista, ma l'hanno riconosciuto credo gli stessi protagonisti della Juve. Però era una partita che a un certo punto poteva girare, nella quale secondo me la Juve ha fatto una bella figura. Poi se questo vuol dire essere il prossimo direttore di un Rai Juve, non lo so, ma non, cioè, no, però le cose per me dire, è oggettivo, infatti, così come è oggettivo che è stata una grande stagione. Io non so in quanti all'inizio della stagione avrebbero pensato che la Juve avrebbe vinto il campionato a spasso, perché questo è quello che è successo, la Coppa Italia e finale di Champions. Di che parliamo? Parliamo di Sarri invece, hai voglia? Molto volentieri. Io sì. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Escursione, perché gli ho detto queste cose, gli ho detto che quando vedono le maglie a righe hanno delle difficoltà a prendere delle decisioni. Questo non si dice, Maurizio. Ma infatti l'escursione ci poteva anche stare, io mi aspettavo un minimo di comprensione. Se devo essere estremamente sincero, a me la Coppa Italia è una manifestazione che non piace nella maniera più assoluta, manifestazione antisportiva, in cui ci sono squadre che stanno entrando in ballo adesso, a quinto o sesto turno, non so neanche a che turno siamo, quindi di questa manifestazione dal punto di vista sportivo non mi interessava assolutamente niente, mi dispiace molto per i miei giocatori. Mi ha detto che era onorato di conoscermi, io gli ho detto: ma mi stai prendendo per il culo? Sei Samuel Eto'o. Un ragazzo mi ha detto che era onorato di conoscermi perché aveva visto la nostra squadra, era una squadra che gli piaceva tantissimo, e io gli ho detto: ma non sei di fuori, mio, ma te sei Samuel Eto'o. Bandiera rossa la trionferà. Forse Berlusconi De Luca sarebbe licenziato, Pardo. Cribio. Bandiera rossa canzoni, sotto le queste provocazioni. Sotto le parole, frasi storiche di Sarri, nuovo allenatore del Napoli. È un piacere salutare Ottavio Bianchi. Buongiorno, mister. Buongiorno a voi. Buongiorno. Lascio la prima domanda a Pardo. Com'è allenare il Napoli, mister? Perché si parla molto in queste ore di pressioni di Sarri provinciale, della partecipazione che c'è a Napoli. Immagino, insomma, che lei la conosca ovviamente molto molto bene. Quelli sono stati anni meravigliosi, la città vive un rapporto di simbiosi continua con la squadra, si parla di calcio 365 giorni all'anno, o sbaglio? No, è la verità. Poi hanno passione da sempre. Io ho avuto anche la fortuna di fare l'allenatore con grandi giocatori, e così ti fa sentire proprio, ma può trasformare anche un mediocre in campione, e viceversa. La pressione e l'attenzione, più che pressione, l'attenzione, l'amore costante con gli alti e bassi di una... logico che un giocatore o un allenatore deve essere attrezzato caratterialmente ad affrontare questa, che è una città particolare, né migliore né peggiore delle altre per lavorare. Bisogna solo conoscerla e poi bisogna vedere il dialogo che hai con la società. Nei giorni scorsi abbiamo parlato, mister, abbiamo parlato in maniera un po' filosofica della stagione di Benitez, dei Raffaeliti, come li chiama Pardo. Benitez rappresentava un po' l'apertura verso l'Europa, rappresentava quello che Mazzarri non era, rappresentava una certa voglia di grandezza europea del Napoli. Sarri rappresenta invece, e sto parlando sempre dal punto di vista filosofico, la fame, rappresenta la qualcosa di diverso. Ma sì, questo profilo filosofico siete bravissimi, io invece sono molto pragmatico e in tutte le posti dove vai conta il risultato che dai, il resto sono solo chiacchiere. Certo è che se vai nella stanza dei bottoni e fai un gran premio con una macchina particolare, ti metti d'accordo che a malapena questa macchina può arrivare a metà gara, se poi questi pretendono che devi vincere la corsa diventa più difficile. Certo. E io mi sembra che in tanti anni di Napoli non bisogna mai sottovalutare l'intelligenza dei napoletani, anche se apparentemente sembra che vivono sempre così, con la canzonetta o con la pizza. Sì, bisogna raccontare la verità, dire la verità e poi dare la possibilità in questo caso all'allenatore, ma anche ai giocatori, di esprimersi al meglio senza tanti giri di parole. Qual è la principale difficoltà, se esiste invece il principale alleato che un allenatore, oltretutto in questo caso provinciale, per sua stessa missione può trovare a Napoli? Se gli dovesse dare un consiglio, sono passati un po' di anni, una trentina d'anni, però no, però voglio dire, dal punto di vista ambientale, l'ambiente poi alla fine rimane quello, la passione della città, l'amore per la squadra, la pressione. L'intelligenza dei napoletani, anche come diceva... I consigli mi hanno insegnato che non si danno. Okay. E poi se sono dei buoni consigli è una tragedia, e questo lo diceva qualcuno più importante di me. Ma l'unica cosa che io posso dire nel mio caso è che io purtroppo non conosco né il signor Sarri né conosco né i dirigenti. È difficile, poi non so l'organico che mettono a disposizione, se questo allenatore lavora in prevalenza con i giovani o con gli anziani, se l'obiettivo da raggiungere, tantissime cose. Io l'etichetta provinciale la escluderei, nel senso che uno quando è capace a lavorare lavora in tutte le squadre. È un'etichetta, non so, come quella l'italianista, il difensivista, poi dopo vai a vedere che molti allenatori che pensano, fanno sapere che giocano d'attacco, fanno giocare il capocannoniere terzino, insomma, l'abbiamo avuto in tante occasioni. Senta, però... io l'etichetta non la metto, io non so, ho anche scelto alcuni allenatori bravi quando facevo un altro mestiere. Non è una cosa facile da inventarsi da un momento all'altro, bisogna vedere proprio quello che hai a disposizione, l'obiettivo che vuoi raggiungere, come deve lavorare, chi gli mette vicino per lavorare, il feeling che può avere con la dirigenza, il feeling che può avere con i giocatori e anche con la piazza. Però possiamo dire che Benitez non ha fatto bene, possiamo dire che ha deluso, possiamo dire che non ha fatto una buona stagione. No, Benitez secondo me ha parlato troppo o ha parlato troppo poco in due situazioni, nel senso che anche essere monotematico in Italia, lei mi insegna che gli allenatori italiani sono bravi sotto il profilo tattico. E i nostri dirigenti, i miei maestri mi hanno sempre insegnato che non vai mai in campo battuto, non devi dare la possibilità all'avversario, anche se più forte, di avere la strada spianata. Fatto di tutto, in tutte le maniere tattiche, di metterti in difficoltà, perché posso sempre vincere anch'io. Ma quello di come il pugile, il grande pugile non è Bum Bum Mancini, ma è Monzon. Certo. Quello che ti picchia e prende meno pugni. Certo, certo. Cosa intende per monotematico? Si riferisce dal punto di vista tattico? Mi riferisco in tutti i sensi. Poi, secondo me, non l'hanno aiutato molto Benitez, nel senso che non gli hanno fatto capire cosa vuol dire il tessuto psicologico e sociale di Napoli. Napoli bisogna viverla. Bisogna andare a teatro, bisogna stare... Io sono stato agevolato in una maniera pazzesca, perché ho fatto 5 anni da calciatore e lei sa che nel mondo del calcio italiano non cambia mai niente. Certo. Immaginiamo a Napoli. sapevo tutti i sotterfugi, vita e morte, miracoli di come tirava lo spiffero. E lì bisogna dargli una mano a questa gente che viene, specialmente Benitez veniva da fuori, da un calcio sambato spagnolo, da un calcio asettico durante la settimana inglese, vai a Napoli che è tutto l'opposto di tutte e due, gli devi dare una quindi mano. Il consiglio a Sarri, io lo sposo pienamente, che insomma dal punto di vista proprio anche di gusto personale Napoli mi fa impazzire, è vivere la città. Sì, Napoli devi vivere, con i pro e i contro. È chiaro che vivi la città in certi momenti, è più pericolosa quando vinci di quanto perdi, Quando vinci hai molto più pressione. Che succede a Napoli da vincitore, che facevano? Mozzarelle gratis ogni metro, pizze, caffè offerti, caffè in sospeso. No, io le dico solo che ho vissuto 5 anni chiuso in una camera d'albergo e con poche persone, e al ristorante andavo a mangiare con i camerieri, questo, o con il mio vecchio maestro che ricordo e che mi fa commuovere ancora ricordando Bruno Pesaola, sì, certo, sì. Che allenava maestro, i giornalisti, no, il Petis. Era un maestro di vita che io però ero un pessimo allievo e mi insegnava ogni martedì quando andavamo fuori a cena, mi insegnava il comportamento da tenere con i giornalisti, ma io un pessimo allievo e non ho mai imparato. A che ora andavate a cena? Mezzanotte. No, lui era terribile perché avevamo sempre il tavolo prenotato, ma lui, per lui cena era le 11:30, certo. Per me erano le 8:30, però era talmente carino nei miei confronti che in quell'occasione veniva verso le 9:30. Beh, ma da Mimì? No, andavamo alla sacrestia, andavamo in 2 o 3 posti dove avevamo un salottino privato. Ho capito. Senti, un'ultima cosa, incoronazione di Allegri, siamo tutti d'accordo, è stata la stagione della consacrazione di Massimiliano Allegri? Direi di sì, direi che, guardi che avere i risultati, ma più che risultato l'approccio e cambiare in corsa il gioco, perché più che il gioco la mentalità, l'approccio alla partita che ha fatto lui è stato lì il problema, perché giocatori che vengono da 3 vittorie da 3 campionati consecutivi, arriva un allenatore che si trova un organico già collaudato, però che affronta la partita con grande pressione, una squadra caratteriale. L'intelligenza è stata quella di non continuare quello, perché altrimenti non ce l'avrebbero fatta, certo. E invece trasformare, perché le grandi squadre anche durante la partita, nella singola partita, devono sapere alternare momenti di pressione e momenti di gioco ragionato. Poi devo dire che bisogna ammetterlo, che la società, quando noi si parla di cicli, di risultati che vengono per molti anni, è fondamentale la società. A Torino hanno vinto il campionato, il giorno dopo già lavorano per l'altro, certo, campionato, certo, non fai feste per 3-4 mesi. Certo, certo. Le squadre che non sono abituate a vincere, ma questo non è solo in Italia, in tutte le parti, se andiamo a ricordare bene, tantissime squadre che hanno vinto il campionato poi nel giro di pochi anni sono cadute in Serie C. Mm-hmm. Per una serie di incapacità gestionali. No, ma la grande forza della Juventus invece è quella di avere una struttura così solida dal punto di vista societario. Mister, grazie. Da sempre, da 50 anni a 60. Però reinventata, reinventata in chiave, sì, moderna in questo caso. Certo, senza dubbio. Mister, grazie. Che fa? Che vita conduce lei in questo momento? Dove si trova? Io adesso sono a casa mia a Bergamo. Stavo leggendo un po' di giornali e voi Sì, abbiamo rotto. Sentiamo, sentiamoci più spesso, va bene. No, perché è un piacere. E poi c'è chi mi scrive una domanda su Maradona la prossima volta. Lo prometto. La prossima volta vado col domandone Maradona o Messi, tanto la più facile di tutto. No, questa è una domanda molto difficile e che non mi hanno mai fatto nessuno. Posso immaginare. Per l'amor del cielo, non l'ha mai sentita questa. Allora le do una chicca, ci metta dentro anche Sivori, con il quale ho giocato, anche lui numero 10, facciamo e matura la bibliografia, dai, Sergio, però il problema è che ricollegando tutte e tre questi 10 si viene a sapere la mia età. La cosa più bella di Napoli qual è? La cosa più bella di Napoli, quella alla quale ripensa a distanza di anni e chilometri? Ce ne sono tantissime, perché io ho cambiato. Io in tutte le parti dove sono stato ho sempre distinto molto il lavoro dalle esperienze personali, non ho mai frequentato in toto l'ambiente calcio, proprio per niente, e è stata l'amicizia di certe persone, io ho trovato a Napoli delle persone che sono di una signorilità, di una cultura che non ho mai trovato da nessun'altra parte. Questo non faccio fatica a crederlo. Grazie mister. Grazie alla prossima. Ci scusiamo con Aldo e Giuliano. Ci scusiamo fortemente e profondamente con Aldo e Giuliano. Domani recuperiamo, naturalmente, all'inizio del programma, se avranno tempo e voglia. Ciao Pier. Ciao. Vieni a trovarmi domani anche. Grazie Pierluigi Pardo, ciao. Giorgio Luca, nostro dottore, Gianmarco Ferranti, regia. Ciao. Aldo, ti posso salutare, che io ti volevo ringraziare.